A bordo campo di Dario Ricci. I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Chill. Chill. Chill. Chill. Chill. Chill. Chill. Il libro bianco del basket, anzi meglio i libri bianchi del basket, di questi oggi parliamo a bordo campo a Radio 24, raccontandovi una grande storia di solidarietà, cultura, amore per la pallacanestro che sta nascendo, anzi già da qualche stagione sta andando avanti a Torino, città che per altri percorsi sta riscoprendo il basket di vertice, ma che sta sviluppando appunto da qualche anno questo progetto di cui oggi parliamo qui a bordo campo. Si chiama Auxilium School Project ed è un programma appunto rivolto ai bambini delle scuole elementari, delle scuole primarie di molte zone di Torino. E allora ne parliamo oggi con i nostri ospiti, il primo Charles Muyango, che è stato ex giocatore della grande Torino, quella gli appassionati di basket la ricorderanno, quella dei Sacchetti, dei Morandotti, dei Bentham, dei May, del grande professor Dido Guerrieri, veramente nomi leggendari per la nostra pallacanestro, e oggi Charles è uno degli animatori di questo progetto. Benvenuto Charles a bordo campo. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. E poi, altra nostra ospite, Paola Pecchiura, della scuola primaria Gianelli, istituto comprensivo Turoldo delle Vallette, che è una delle maestre che partecipa al progetto. Buongiorno maestra Paola. Buongiorno anche a voi. Allora Charles, entriamo subito in campo, lanciamo subito in alto la palla a due. Spiegaci un po' come nasce, di cosa si tratta l'Auxilium School Project. Abbiamo parlato di questi libri bianchi del basket, no? Chi li ha scritti? Scriverli, non solo scritti, anche disegnati, e abbelliti con varie tecniche. È tutto stato frutto del lavoro dei bambini. Noi gli abbiamo solo fornito un libro bianco senza nessun tipo di vincolo, e da lì è nato quello che poi è diventato un concorso. Noi come società abbiamo deciso di ogni anno di inventare qualcosa per interessare ancora di più i bambini, oltre che in palestra, dove noi siamo abbastanza presenti, posso dire, anche fuori, nel senso che lo sport può essere collegato alla musica, alla cultura, a tantissime altre cose. Spesso non viene fatto, viene visto come una cosa separata. In realtà il nostro progetto prevede proprio il fatto di aggregare tramite lo sport e tramite queste iniziative. Anche perché soprattutto l'amore per la pallacanestro è stato il motore primo di questa iniziativa, no? La vostra idea è stata quella di bussare alla porta delle primarie torinesi e di offrire gratuitamente dei corsi di basket nell'ora dedicata all'attività motoria, no? Quell'ora che a volte viene un po' dispersa, no? Tra sia per il numero degli alunni sia per la difficoltà di organizzarli, dargli un senso con un bel tiro a canestro direi che è un'idea semplice e rivoluzionaria al tempo stesso, no? Esatto, e soprattutto la nostra idea iniziale era quella di riavvicinare i bambini a questo sport che non era quasi più conosciuto da loro, perché non ci sono grossissime occasioni per vederlo, soprattutto in televisione. Da lì poi abbiamo sviluppato tutta una serie di cose, siamo partiti e partiamo tuttora come idea con le quattro lezioni gratuite per ogni classe, e parliamo di terze, quarte e quinte per ora, perché poi so che interessa anche prima e seconda. Poi dopo, grazie proprio all'interesse degli insegnanti, dei bambini stessi, abbiamo studiato delle formule per permettere comunque a tutti di fare anche più attività. Ecco, il risultato di questo progetto a tutt'oggi è che sono circa 100 le classi coinvolte in tutta Torino, 1800 bambini che giocano a basket e a scuola anche in quartieri difficili di Torino e dell'Interland. Charles, deformazione professionale, hai offerto un ottimo assist alla maestra Paola per raccontarci come questo progetto è vissuto dai bambini. Come giustamente sottolineavi, per ora quelli che vanno dagli 8 agli 11 anni, ma è in programma anche nel prossimo futuro di coinvolgere i più piccolini, dai 6 agli 8 anni, in età da pieno mini basket, mi viene da dire, no maestra? Assolutamente sì. Diciamo che noi abbiamo accolto questa iniziativa e siamo stati entusiasti, intanto perché comunque l'Auxilium School Project è una società seria e quello che promette mantiene, e poi soprattutto perché gli istruttori che arrivano sono sicuramente più qualificati di una normale insegnante, che certo può aver di suo qualche abilità motoria o aver giocato a basket, ma non è mai come essere veramente un personaggio che lavora in questo campo. I bambini sono assolutamente entusiasti, tant'è che spesso tutte le classi che possono prima usufruire gratuitamente dell'attività chiedono di poter avere un prolungamento. E poi io, se mi posso permettere di dire, questa attività viene anche svolta per un giorno a settimana nelle nostre scuole primarie dalle 16.30 alle 17.30, quindi è anche un'attività che attraverso la quale i genitori possono comunque fare un'ora in più ancora di basket ai loro alunni. È un bello stimolo. No, ai loro figli, alunni sono i miei. Ma insomma, poi per una maestra alunno e figlio un po' si sovrappongono, glielo concedo il lapsus. Tra l'altro immagino Paola sia anche un buono stimolo per fare i compiti del pomeriggio, perché l'idea poi di scendere in campo ancora alle 16.30, io mi sbrigherei a studiare, no? Certo, assolutamente sì. Direi che a completamento, e anzi parte importante del progetto, c'è proprio questa idea dei libri bianchi, cioè avete chiesto insieme all'Auxilium ai vostri bambini non solo di divertirsi in campo e di scegliere il canestro un po' come maestro di vita, dai, usiamo un po' d'enfasi, ma anche di raccontare attraverso dei quaderni, che poi sono diventati dei veri e propri libri, la loro passione per il basket e il loro amore per la pallacanestro. Assolutamente, questa è stata un'iniziativa che, come ho detto anche a Charles quest'anno, credo sia veramente un complemento all'attività che i bambini svolgono. Intanto credo che il senso fondamentale dell'attività del basket è proprio quello dell'imparare delle regole, che non sono solo regole che uso nel basket, ma che poi posso usare anche nella vita. Pertanto, anche nel completamento di questi libri, i bambini hanno imparato, ognuno il suo ruolo, ognuno deve rispettare i propri tempi e ognuno deve dare il proprio contributo. Io credo che questa sia una delle cose che ha aiutato gli alunni a riflettere, oltre che sul senso dello sport, anche sul senso di come ci si comporta nella vita di tutti i giorni. A proposito di contributi, importante anche quello che ha dato ADD Editore, donando prima dei libri proprio agli alunni, ai ragazzi, e poi dando vita, contribuendo a dar vita a questa seconda parte del progetto. Charles, tu che hai sfogliato questi libri, immagino che di assist, di storie, di disegni ce ne siano di belli a bizzeffe. Quello che ti ha colpito di più? Non posso sbilanciarmi, anche perché io so pure chi ha vinto che abbiamo fatto, quindi bravo. Dire che ce ne sono stati veramente tanti che mi sono piaciuti. Poi ripeto, io non posso dire quello che mi è piaciuto di più, perché ci sarebbe un piccolo conflitto di interessi. Bravo, perché da bravo giudice infatti Charles ci ricorda che il 14 aprile proprio al Pala Ruffini c'è la premiazione del concorso, i 3 migliori libri bianchi sul basket, ora non più bianchi perché riempiti da questi disegni, da queste storie, verranno premiati. Tra l'altro, primo premio, assistere a una partita dell'Olimpia Milano. Come mai questa assist a Milano? Perché c'è un collegamento diretto, no Charles? Sì, noi dall'inizio della nostra attività abbiamo pensato di rivolgerci a una società che riteniamo essere un po' il traino, oltre a Siena, del basket italiano. Abbiamo scoperto che loro hanno un progetto sui bambini molto interessante, fanno una scuola di tifo al palazzetto, abbiamo scoperto che fanno tante cose, tante iniziative, e quindi abbiamo chiesto di poter far parte di quello che è l'Armani Junior Program. grazie a questa, diciamo, conoscenza iniziale, c'è poi stata la possibilità di concordare un premio bello, nel senso che vedere una partita al Forum, poi tra parentesi sarà la partita con Sassari, quindi insomma, diciamo, da 5 stelle cartello per quello che riguarda quest'anno il campionato di basket, è stato una bella cosa. Tra parentesi, saranno presenti alla festa i due responsabili dell'Armani per premiare direttamente i bambini che hanno vinto. Beh, insomma, caspita, quasi quasi a saperlo prima lo scrivevo anch'io il mio libretto, magari riuscivo a accaparrarmi il primo premio. Anche il secondo è molto bello, perché è una giornata al Bioparco Zoom di Torino, e il terzo premio assistere a una partita della Manita al Torino. Allora Charles, in conclusione, e ringraziandoti sia per essere stato nostro ospite sia soprattutto per questa iniziativa, una domanda di basket ci vuole, di basket vero e proprio giocato: ce la farà Torino a tornare in Serie A, a tornare protagonista del nostro basket? Penso che tutti quanti speriamo che riesca a farcela. Non è semplice, perché comunque da squadra che affronta per il primo anno un campionato come quello nuovissimo di LNT Gold, non è semplice. Ci sono tante squadre attrezzate che hanno investito molto. Io penso che alla fine tutto il lavoro fatto, se non si concretizzerà quest'anno, potrà essere concretizzato, diciamo, l'anno prossimo, in cui tra parentesi Torino sarà anche città capitale europea dello sport. Quindi speriamo tutti che o quest'anno o l'anno prossimo la PMS riesca a vincere il campionato, a tornare in Serie A, che è il livello che vogliamo qua a Torino. Mi sembrano parole sacrosante. Paola Pecchiura, maestra della scuola primaria Gianelli, grazie per essere stata nostra ospite. Paola, in conclusione una curiosità: ma anche tu giochi ormai un po' a basket, ti ha contagiato Charles, i tuoi bambini certo. Ti hanno convinto? Assolutamente sì, e poi soprattutto io cerco, quando i bambini non ci sono, così non mi vedono, di andare in palestra, e so dove tengono i palloni da basket i ragazzi dell'Auxilium, e quindi io vado, riprendo e mi esercito. Ecco la allenamento, doppia razione d'allenamenti. Attenzione Charles, che è una pericolosa rivale in casa. Non voglio vedere una sfida ai tiri liberi in cui Charles Muyango venga abbattuto da Paola Pecchiura. Beh, il risultato poi ce lo farete Devo sapere. I palloni. Ecco, bravo, chiudi meglio. Meglio. Chiudi meglio quello spogliatoio, chiudi meglio quella cesta. Attenzione Charles. Allora, intanto il risultato poi ce lo farete sapere. Sicuramente okay. Vincente è stata la sfida lanciata con Auxilium School Project. Grazie a entrambi per essere stati oggi nostro ospite qui a Bordo Campo. Grazie a te. A Bordo Campo. Brasile 2014 è sempre più vicino. Beh, lo sapete, i mondiali sono ormai dietro l'angolo, campionato che entra nella sua fase decisiva, e chiaramente candidature a quella maglia azzurra che avanzano. Sono tanti i protagonisti che scalpitano per provare a conquistare un biglietto per i mondiali brasiliani. Come sapete, da un po' di tempo abbiamo cominciato a giocarli a modo nostro, questi mondiali, cioè via Facebook, via Twitter, per capire che mondiali saranno dal punto di vista social. E allora, ancora una volta chiamato a Bordo Campo Andrea Barchesi, amministratore delegato di Reputation Manager, la società che studia la reputazione che VIP, ma anche tutti noi, gente comune, si costruisce interagendo attraverso i social network nella rete. Ben ritrovato Andrea. Buon pomeriggio. Allora Andrea, oggi ci siamo divertiti ad analizzare, grazie a Reputation Manager, le interazioni via social di 5 grandi protagonisti della nostra nazionale, o meglio 4 secondo me sicuri in Brasile, e uno sempre più azzurrabile, ma adesso ci arriviamo. Stiamo studiando Balotelli, Buffon, Pirlo, Chiellini e Cassano. Ecco, quest'ultimo è l'azzurrabile, direi. Beh, partiamo proprio da Cassano, perché lui non ha una fanpage ufficiale, no? E il suo ultimo tweet, dai dati che avete analizzato, che abbiamo analizzato insieme, risale addirittura a dicembre 2011, quindi diciamo sicuramente non è uno che sta con lo smartphone sempre in mano, però ha studiato un modo per essere presente sempre comunque sui social, vero? Assolutamente sì, e poi in ogni caso ogni suo tweet, per quanto è abbastanza parco nella sua distribuzione, presenta un ottimo coefficiente di amplificazione, quindi la rete sta aspettando assolutamente un suo segno. Segno che però arriva per interposta persona, perché se lui è così parco, ben più dinamica e attiva è la moglie Carolina Marcialis, che risponde all'indirizzo @chriscarol99. Assolutamente sì, questo è un caso direi abbastanza più unico che raro. Quindi insomma, diciamo, delega Fant'Antonio, come a dire: guarda, se a me mi lasci questo smartphone in mano o mi metti davanti a un PC, non so cosa potrei dire, è meglio che ci pensi te a mente fredda. È una sorta di manager dell'immagine del calciatore. Viene a rubarti il lavoro, Andrea, però, Carolina. Ed è molto brava. Quindi insomma potenzialmente la si potrebbe anche ingaggiare. C'è da imparare nel suo stile fresco e asciutto. È come ogni tanto quelle quattro pere che mette quando magari il Parma ne rifila quattro, come è successo al Milan. Ecco là che Carolina twitta merenda con quattro pere e, a buon intenditore, poche parole. Sempre su Twitter si scatena Super Mario Balotelli. Ecco, lui ha proprio specificato anche online, dice: guardate, io non uso Facebook, è inutile che provate a trarre dichiarazioni, parole, conclusioni da mie eventuali frasi via Facebook, perché sicuramente non sono mie. Una scelta singolare, no? Perché, almeno per come la vedo io, forse Facebook ti garantirebbe un pochino, qualche frase in più per approfondire qualche concetto, qualche idea, evitare qualche distorsione del pensiero. Invece Super Mario se le va a cercare e usa solo Twitter. Va detto di Balotelli che ha un potenziale di immagine digitale enorme, è un brand, è nativo digitale, si esprime in modo estremamente fresco, è quasi un professionista della comunicazione tribale. Detto questo, su Twitter emergono molte delle sue anche paure, nel senso che circa un tweet ogni tre è una smentita di quello che hanno detto altri su di lui. Quindi insomma lo usa proprio come scalpello per costruire la propria personalità online, pur attraverso queste contraddizioni. Assolutamente sì, sono abbastanza polemici i tweet, a volte anche divulgativi, ma soprattutto sono sempre in contrasto della controinformazione che secondo lui viene fatta a suo danno. Ecco, però ad esempio non sarebbe il caso, appunto, visto quanto ci siamo detti, di suggerirgli magari anche di utilizzare Facebook, proprio per avere l'opportunità di essere un pochino meno criptico? Se mettesse assieme nel modo adeguato i due parametri, ci sono pochi personaggi, compreso il mondo dello spettacolo, che possono arrivare alle sue vette di operabilità di audience. E allora Super Mario, metti da parte questi consigli di Andrea Barchesi e di A Bordo Campo, mi raccomando, se sei all'ascolto. Molto più cadenzato è lo stile di uno dei senatori dello spogliatoio azzurro, Giorgio Chiellini, che pure è l'azzurro più anziano su Twitter, no? Perché è presente dal 2009. Assolutamente sì, un precursore nettamente in anticipo su tutti gli altri, con una grandissima mole, perché ha circa 3.800 tweet, è un lavoro nel lavoro. Spesso però firmati con l'hashtag staff, come dire che Giorgio probabilmente si fa aiutare da dei professionisti o comunque dalle persone, da alcune persone delegate a gestire questo profilo Twitter. Assolutamente sì, e hanno raggiunto 1 milione di follower, giusto per fare un rapporto della potenza mediatica nativa. Balotelli ha 1.9 milioni di follower, circa il doppio, ed è nato a maggio 2013, quindi solo per ribadire la potenza intrinseca, e ha fatto 804 tweet contro i 3.800, per cui c'è proprio una reazione del mondo completamente diversa, perché per ogni tweet di Chiellini, che è bravo ed è presente da molto tempo, ha 11.000 reazioni in media, invece ne ha 192.000 Balotelli, quindi tutto quello che dice è dinamite. Insomma, segnare i gol piuttosto che evitarli, qualcosa vorrà pur dire, insieme a tutto il resto, no Andrea? Senti, tanto Balotelli utilizza in modo esclusivo Twitter, quanto invece affezionato utilizzatore soprattutto di Facebook è Capitan Gigi Buffon, con numeri che ritengo clamorosi, no? Sì, sì. a 2.3 milioni di fan, con 81.000 attivi, con dei numeri da capogiro in termini di attività, post, commenti e like, oltre i 5 milioni. Mamma mia, è incredibile. Ricordiamo, fan attivi sono quelli che interagiscono nel momento in cui il VIP o il campione mette il suo post, no? Esattamente, come fosse uno stadio. Sì, nel momento in cui alza la mano il capitano ci sono in media 81.000 tifosi che sentono di corrispondere a quel gesto con una loro interazione. Anche in questo caso però la firma è soprattutto delegata allo staff, vero? Ma infatti Chiellini e Buffon sono quelli che lo gestiscono in modo più professionale, hanno compreso le potenzialità del fatto che loro sono un brand e quindi ne utilizzano maggiormente le potenzialità di marketing. Anche perché credo che il contratto che li vincoli alla Juventus abbia un capitoletto specifico, no? Sulla gestione, il rapporto anche all'attività del club e quella dei colori bianconeri, proprio dei social network. Quindi, bene o male, meglio dedicarsi in modo specifico, con professionalità specifiche, no? Sì, lo indichiamo da tempo, questa è la via. Senti, caso singolarissimo con cui chiudiamo questa nostra analisi è quello di Andrea Pirlo, che è presente sia su Facebook che su Twitter, ma la sua audience è contenuta rispetto agli altri, vero Andrea? È assolutamente contenuta ed è anche interessante studiare quello che lui scrive. Dici un po'. È molto asciutto, molto vicino alla sua psicologia, preciso, ma allo stesso tempo non usa gli hashtag, non usa un linguaggio giovanile dei nativi digitali come Balotelli e così via, e fa sempre incitazioni da caposquadra, da capitano. Quindi da vero e proprio leader, però col cancelletto non c'è una grande familiarità, preferisce mettere le frasi sentenziose piuttosto che tirarsi dietro tutta mettere delle tracce per aumentare l'audience, ecco. Sì, non apre al dialogo. Lo usa un po' come se fosse una comunicazione tradizionale, in cui prima della battaglia viene dato, o anche successivamente alla battaglia stessa, viene dato un po' l'esito. Certo, quindi quasi fosse un SMS agli amici, dai, diciamo così, per capirci. Sì. Il discorso di un generale. Quindi, insomma, però aprire bene le orecchie, perché parla Andrea Pirlo anche via social network, 270.000 i fan, 84.000 i follower per Pirlo, che però è da febbraio che non twitta, però, se non sbaglio. Sì, è un po' assente, non crede pienamente nel mezzo né nella capacità mediatica che ha di guidare il mondo in questo modo. Quindi insomma preferisce il rapporto vis-à-vis, e si dice che insomma di persona Andrea sia ben più loquace e altrettanto sentenzioso, però insomma pochi scherzi con Pirlo. Effettivamente il suo stile asciutto psicologicamente rimarca molto quello che vediamo del personaggio. Insomma, l'avete capito da quanto ci sta dicendo Andrea Barchesi, interessante seguire le tracce digitali dei nostri campioni, perché spesso ci rivelano qualche pezzetto in più di personalità che poi in realtà tutto sommato conosciamo molto poco, se non per ciò che riescono a esprimere sul campo di calcio. Andrea Barchesi, amministratore delegato di Reputation Manager, grazie per averci accompagnato anche in questa nostra ulteriore tappa d'avvicinamento a quello che abbiamo chiamato il Social Mundial di Brasile 2014. Ti riaspettiamo qui presto a bordo campo per un'altra esplorazione nel mondo social di questi mondiali di Brasile sempre più vicini. Grazie a voi. Anche per questo appuntamento con A Bordo Campo è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Potete riascoltarci dal nostro sito web radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Non dimenticate anche il podcast, sempre dal nostro sito. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna domenica prossima, come sempre alle 16.30, e ogni sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.